Se vuoi passiamo a prenderti, o tu potrai raggiungerci. L'età è un fatto inutile, senza ancora crederci. Sei tu che mi telefoni ed io dovrei convincerti, ma poi di colpo siamo giù, farina e la polvere. Chissà se resto giovedì, chissà siamo ancora giovani. Potremmo prendere un caffè, volare giù in centro poi, ma con le mani nei miei jeans, ti pensa tu di non ci sei. Sento correre, è un fremito di gioventù.